troppe risposte confondono una vita antica. Mille tradizioni han costruito un muro intorno a me. Solo e senza forze mi perdo nelle mie parole. Forse chi cerco ha camminato sempre accanto a me.